Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, 14ª puntata di Restiamo Animali, la trasmissione radiofonica per vivere, pensare e agire cruelty free, ovvero senza causare sofferenze e morte ai nostri amici e fratelli animali non umani. Vi dà il benvenuto Camilla Lattanzi, assieme a tutta la ricca redazione composta anche da Alessandra Giannini, Beatrice Montini, Elisa Moretti, Giuseppe Cocco, Lorenzo Guadagnucci e Massimo Chiari. E ricordiamo, per chi non lo avesse ancora capito, che Restiamo Animali si ispira al Restiamo Umani di Vittorio Arrigoni, pacifista ucciso un anno fa in Palestina, perché uno dei modi più nobili per restare umani è proprio quello di sentire amicizia e fratellanza e rispetto verso gli animali non umani, che condividono con noi la possibilità di vivere un passaggio su questo strano pianeta. Quattordicesimo viaggio tra le migliori esperienze animaliste, antispeciste e vegan, questa volta a bordo di una zattera tutta liane e bambù. Carrellata degli argomenti di oggi, parleremo di Jane Goodall, l'etologa antropologa inglese che ci ha fatto scoprire la cultura delle grandi scimmie antropomorfe. Vi racconteremo della prima sentenza che condanna un allevatore di galline ovaiole per maltrattamento. Abbiamo imbarcato Alessandra e Massimo su un'astronave in partenza verso terre future un po' antiquate, dove però i nostri due inviati spaziali, qualche traccia del sol dell'avvenire, sono riusciti, con un po' di impegno, a scovarla. La nostra Elisa recensirà per noi il primo e forse più illustre saggio sulla liberazione animale, a firma del grande filosofo australiano Peter Singer. Lorenzo, sulle colline della Firenze Chic, ha visto da vicino Nunzio e Carlotta, due maiali salvati dal macello, che hanno buone probabilità di morire di vecchiaia dopo un'esistenza da benestanti e uno stile di vita decisamente godereccio, invidiabile. Giuseppe cercherà di convincerci a nutrirci con imbarazzanti leguminose. Per la ricetta di oggi faremo ricorso a tutta la nostra autoironia. E infine, per concludere, il professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo di riferimento del mondo animalista, ci servirà una sua riflessione sul delicato e doloroso tema della vivisezione. La playlist di oggi la chiameremo Pentiti e non pentiti della scelta vegan. Inizieremo e finiremo con due convinte vegane, in sottofondo la Shirley the Garbage, che partecipa alla campagna di PETA, e chiuderemo con Katie Lang e la paradisiaca cover delle Teste Parlanti. Nel mezzo ho inserito Jonesy, pentito della scelta vegana, Jovanotti, vegetariano part-time che duetta con un vegano irremovibile come Michael Franti, Connor Oberst, invece, da vegano è diventato amante del pesce. Oggi ci canta di una colazione a letto come buon auspicio affinché la nostra digiunatrice raggiunga il benefico scopo. Avremo un duetto di famosi pentiti, Michael Stipe, sedotto anch'esso dal pesce, e Chris Martin, che quando è in tournée con i Coldplay si fa di bistecche per avere un maggior rapporto proteico, convinto lui. La magnetica Annie Lennox, qui in versione Tibet, ha partecipato a una campagna contro la sperimentazione dei cosmetici sugli animali. Resta delle sue idee animalista, quindi, così come la Sinead O'Connor, che verrà a pasteggiare gentilmente con noi. Infine, tra i vari animali umani ci saranno anche degli orsi, famosi per uno spot televisivo. Pentiti credenti, adepti follie e manie, le potrete scoprire visitando il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, che potete raggiungere anche dalla home page di Controradio o con una bella meditazione sull'impermanenza. Questa puntata è dedicata a Jane Goodall, una grande etologa ed antropologa britannica conosciuta in tutto il mondo. Jane ha dedicato la sua vita alla ricerca sugli scimpanzé, una ricerca che ha portato a risultati fondamentali nella comprensione del comportamento e dell'apprendimento sociale di questi animali, nei loro processi di pensiero e della loro cultura. Jane è fra gli ideatori del progetto Grande Scimmia, che si prefigge di attribuire ai primati alcuni dei diritti che sono riconosciuti agli umani. È uno dei progetti più importanti per l'avanzamento dei diritti animali. Jane ha fondato un istituto che porta il suo nome e che finanzia progetti in vari paesi africani che hanno portato alla creazione di santuari per animali, ma anche a piani e programmi di protezione dell'ambiente e di sostegno alle famiglie più bisognose. Jane sarà questa sera a Firenze per un appuntamento assolutamente da non perdere. Al cinema Odeon alle 21:15 racconterà la sua vita in una performance intitolata Il viaggio di Jane. Jane Goodall racconta Jane Goodall. Notizie, interviste, attualità. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale Penale di Fermo ha condannato per la violazione dell'articolo 544 ter del Codice Penale, ovvero per maltrattamento di animali, il titolare di un allevamento intensivo di galline ovaiole di Fermo, perché l'imputato manteneva gli animali, 1.100.000 galline, in stato di totale sovraffollamento, in gabbie non a norma, configurando quindi una condizione di maltrattamento degli animali così detenuti. All'interno delle strutture risultavano infatti presenti ben 300.000 galline in più rispetto a quanto la normativa vigente consentisse, ovvero un'eccedenza fino a quasi il 50%, che comportava uno stato di evidente sofferenza per gli animali, non garantendo loro la naturale minima capacità di movimento, di apertura alare, di accesso a cibo e acqua, costringendoli a situazioni di inevitabile schiacciamento e conseguenti forme di reazione violente tra gli stessi. Tutto ciò comportava anche inevitabili e gravissime conseguenze negative dal punto di vista igienico, tra cui scarsa ventilazione, illuminazione insufficiente e carcasse di animali morti non rimosse. Questa sentenza sia di monito per gli allevatori italiani che sottopongono le galline all'inaccettabile pratica della muta forzata, consistente nel provocare un fortissimo stress etologico agli animali, tenendoli senza cibo o acqua per diversi giorni, in modo che dopo qualche giorno tornino ad una produttività altissima. Questa pratica è dichiaratamente un reato, ma nessuno lo contesta in violazione delle norme penali e del buon senso umano. In Italia, ben 435 allevamenti di galline ovaiole non si sono ancora adeguati alla nuova normativa europea entrata in vigore dal 1 gennaio 2012. E così circa 17 milioni di animali risulterebbero ancora detenuti in gabbie oggi vietate. A causa di queste illegalità, i cittadini dovranno pagare anche i costi della procedura di infrazione cui le istituzioni europee ci stanno portando, per fare gli interessi di pochi. Si tratta di una sentenza importante in quanto ribadisce le specifiche responsabilità di coloro che gestiscono animali per finalità commerciali, e in quanto finalmente dispone la sospensione dell'attività commerciale che ha causato il maltrattamento. Dal successo del Social Forum europeo che si svolse a Firenze nel 2002 è nata Terra Futura, la mostra convegno che riunisce ogni anno istituzioni e imprese impegnate in esperienza di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Lo scorso fine settimana, nella magnifica cornice della Fortezza d'Abasso, si è svolta la nona edizione di questa kermesse. Promossa e organizzata da Fondazione Banca Etica e Regione Toscana, in collaborazione con una lunga serie di altri soggetti, Terra Futura dal punto di vista degli eventi culturali ha avuto il pregio di organizzare una serie interminabile di seminari e laboratori su importantissimi temi come la crisi globale, il lavoro, le mafie, le politiche fiscali, le energie alternative. A livello espositori, però, dal nostro punto di vista, l'edizione di quest'anno è stata a dir poco deludente. Nella passata edizione avevamo apprezzato un'area dedicata alle pratiche cruelty free, che però quest'anno è risultata assente per problemi di budget. Infatti, talvolta la qualità delle proposte è inversamente proporzionale alle capacità di spese per uno spazio espositivo. In compenso, passeggiando tra i corridoi abbiamo notato un venditore di prosciutti che affettava un cosciotto con grande disinvoltura a pochi passi da un produttore di scarpe cruelty free. Questa commissione ci è sembrata scriteriata, ovvero mancante di un criterio, e abbondante di cattivo gusto e valori antiquati. Più che di terra futura ci è parsa una terra passata e già per molti versi remota. Alessandra Giannini e Massimo Chiari della redazione di Restiamo Animali hanno fatto un blitz alla fortezza, selezionando per gli ascoltatori le esperienze nelle quali hanno riconosciuto lo sforzo sincero di costruire una terra futura che, se sarà, non potrà essere che una terra cruelty free. Ecco il poco o tanto, a secondo dei punti di vista, che hanno trovato. Salve a tutti, ci troviamo oggi in trasferta a Terra Futura e la nostra attenzione è stata colta da Vegetalis, un catering fieristico vegetariano vegano. Siamo in compagnia di Robin che ci spiegherà velocemente di cosa si tratta. Sì, allora noi siamo un ristorante che serviamo esclusivamente cibo vegetariano, 100% vegetariano, senza carne, pesce, uova, la maggior parte anche vegan, cioè senza latticini e panna, cose del genere. Abbiamo piatti come curry indiano, curry thailandese, che sono dei piatti molto orientati appunto della cucina ayurvedica indiana, ma non solo, cioè un po' cucina internazionale, e quello che li unisce è appunto il fatto che sono tutti vegetariani. Quindi da voi è possibile mangiare vegetariano, vegano, ma soprattutto biologico. E il costo più o meno di un pasto si aggira intorno a? Beh, abbiamo piatti più o meno di tutti i prezzi, possiamo fare dei piatti da 5 euro, che sono degli involtini con riso, poi abbiamo piatti più elaborati come il piatto indiano misto che viene, si aggira intorno ai 12 euro. Comunque i nostri piatti sono piuttosto abbondanti, quindi sì, sostanziosi. Infatti molte volte consigliamo anche alla gente, se viene in gruppo, cioè in due persone, una coppia, le diamo due forchettine per dividerlo. Per dividere. C'è richiesta in questi giorni di fiera, come ha risposto il popolo di Terra Futura? Gente molto gentile, comunque questo è un terreno fertile, diciamo, per questo tipo di attività, perché qui almeno riusciamo a trasmettere qualcosa alla gente, che comunque molte di queste persone si interessano a uno stile di vita vegetariano e vegano, e quindi siamo contenti anche noi. Voi fate catering anche per altri eventi fieristici, tipo la mostra dell'artigianato. In queste realtà che non sono, diciamo, animate da un forte spirito etico ecologista, la gente come risponde? Noi ad esempio abbiamo piatti che dentro c'è della carne di soia, cioè carne vegetariana, sembra carne ma è tutto 100% vegetariano. Quindi non se ne accorgono. Molta gente lì per lì non se ne accorge. Poi noi spieghiamo che è comunque carne di soia. Carne, e quindi, senza sofferenza. Esatto, senza violenza. E quindi lì per lì magari ci rimangono un po' così, ma poi quando mangiano i nostri piatti molta gente ritorna e dice che è stato veramente buono. Passeggiando per i corridoi del padiglione Spadolini, stavolta la mia attenzione è stata catturata da un paio di sandalini Giglio, tipica calzatura fiorentina ideata dai fratelli Tayat. Guardando bene mi sono resa conto di essere davanti a uno stand di calzature vegane. Il nome dello stand è Cammina Leggero Animal Free Shoes. Ho deciso di provarmi il sandalino Giglio e sono qui con Carolina, che mi sta tirando fuori un delizioso 41 per il mio piede da fata, e la domanda sorge spontanea: a parte i vegani, chi decide di fare un acquisto di questo tipo? Le persone si avvicinano allo stand delle nostre calzature prima di tutto perché c'è un avvicinamento estetico. È raro che qualcuno si avvicini dicendo sono scarpe non di origine animale, vengo e prendo la scarpa giustificando la scelta esclusivamente per il materiale. Normalmente la maggior parte delle persone che si avvicinano pensando di avere a che fare con un tipo di calzatura tradizionale che ancora proviene dall'industria legata alla pelletteria, al cuoio, all'utilizzo di questi materiali di origine, diciamo, animale, e poi indagano, si stupiscono, guardano, toccano il materiale, e da lì sorge quello che è l'aspetto narrativo del prodotto, che ti permette così di veicolare un modo di rivedere i consumi, un rispetto per quello che è l'ambiente, che inizialmente forse è la motivazione meno immediata perché si avvicina allo stand. Che materiali utilizzate per realizzare queste calzature? Sono microfibre poliuretaniche senza PVC, si comportano esattamente come il gemello tradizionale delle calzature in pelle, quindi traspirante, anche a livello estetico fai fatica a individuare le differenze. Il reticolo che questo materiale compone è esattamente quello della nostra cute, per questo che è portabile, vestibile ed è anche difendibile a livello tecnico come una normale scarpa. Non è una scarpa in plastica, è una scarpa pensata anche con caratteristiche sanitarie e di rispetto della camminata, della calzata, che insomma non hanno deficit. Siamo allo stand di Isola Bio e chiediamo a Dennis qual è il mercato dei latti vegetali in Italia e anche all'estero. Allora, il mercato delle bevande vegetali è sicuramente in crescita e è richiesto da persone principalmente che hanno problemi di intolleranza con il lattosio. Poi può essere anche richiesto per una scelta, dato che è un prodotto vegano, per una persona che appunto è vegana può scegliere bevande vegetali proprio per eliminare il latte, dato che proviene dal mondo animale. Oltre a questa scelta, diciamo che può essere anche per il fatto per chi ha problemi di colesterolo, per chi ha problemi anche con le proteine del latte, per esempio la caseina. È un mercato che sia in Italia sia a livello europeo è sicuramente in crescita. Perché? Perché le persone aumentano la loro consapevolezza nell'eliminare il latte vaccino e di trovare un qualcosa di alternativo a questo. Appunto, noi siamo un'azienda che dà questa opportunità. L'azienda sia conduzione familiare e l'azienda sì, sicuramente è in crescita, è un trend positivo, siamo in crescita del 15% in questi primi 6 mesi, in Italia del 25%, in Francia addirittura 30% circa, e sicuramente stanno emergendo nuovi mercati come la Russia, l'India e la Cina. Per latte vegetale spesso si pensa soltanto al latte di soia, ma qua vedo esposti vari prodotti, ce li descrivi brevemente? Certo, noi siamo un'azienda specializzata nelle bevande cereali, infatti si possono trovare qua da noi nello stand una bevanda di avena, per esempio la bevanda di miglio, e abbiamo anche la bevanda di farro, per esempio, quindi cerchiamo di riscoprire quei cereali antichi che la tradizione italiana in questi ultimi decenni ha dimenticato. Però stiamo anche specializzandoci nella soia, che è una leguminosa che abbiamo iniziato da 4-5 anni a produrla noi, ma anche altri pseudo cereali come il grano saraceno o per esempio anche la quinoa. Pseudo cereali perché anche le persone con le intolleranze al glutine possano usufruire appunto della bevanda al grano saraceno e alla quinoa. Io sto assaggiando vari prodotti e sono tutti eccellenti, quindi che dire, ringraziamo Dennis e mi faccio un altro bicchierino di ciufa. Arrivederci a tutti. Da vicino non mangio mai qualcuno che conosco. If you take a step, I will make sure that you... Questa volta il reportage lo faccio da casa. Io e Camilla abitiamo a Soffiano, praticamente all'interno di un'azienda agricola. Qui oltre agli umani ci sono un bel po' di altri animali. Ci sono cani, gatti, un colombo, un meraviglioso gruppo di tartarughe. Ci sono animali selvatici. Si ascolta spesso la voce del fagiano. E abbiamo ricevuto nel campo di patate recentemente la visita di un istrice che ha pensato bene di condividere con noi qualche tubero. E poi ci sono due maiali di origine vietnamita, completamente neri, due immigrati con permesso di soggiorno. Sono Nunzio e Carlotta, che vivono all'interno di un recinto piuttosto spazioso che è circondato da un piccolo filo elettrico che dà una leggera scossa, che peraltro Nunzio e Carlotta, quando vogliono, riescono a evitare, a saltare, in modo da poter uscire. Non succede spessissimo, ma succede. La presenza di Nunzio e Carlotta ci ha permesso di conoscere questi animali con i quali è difficile avere una familiarità. Io personalmente ho capito quanto sia fondato quel detto che è attribuito a Winston Churchill, secondo il quale il cane ti guarda dal basso verso l'alto, il gatto dall'alto verso il basso, mentre il maiale ti guarda alla pari. Io mi ci ritrovo nello sguardo, nei modi, nelle reazioni di Carlotta e Nunzio. La Carlotta, a dir la verità, è un pochino irascibile. Una volta, mentre le portavo da mangiare, mi sono fermato a guardarla molto da vicino, e lei però non era tanto contenta di questa mia presenza. Forse ero troppo accosto a lei, o forse semplicemente era nervosa. Fatto sta che ci siamo guardati negli occhi e lei mi ha lanciato uno sguardo di ira e di minaccia. Ci siamo intesi subito, nel senso che io me la sono data a gambe, ho girato, ho saltato il filo elettrico e lei si è dovuta fermare. Nunzio invece ha un carattere diverso, è arrivato molto piccolo da un paio d'anni, quindi si è trovato già con una compagna più adulta, ed è comunque uno spirito più indipendente, più autonomo. E una volta mi sono trovato con lui mentre stavo lavorando al mio orto. Sul momento ho avuto un po' di preoccupazione, perché sapendo che forza hanno quando si mettono a grufolare, ho temuto che si sarebbe avventato sulle mie coltivazioni e non avrei avuto la minima possibilità di fermarlo. E in realtà ci siamo guardati anche lì, forse lui ha capito che io non ero troppo favorevole ad una sua azione all'interno dell'orto, e fatto sta che ha trascurato tutte i prodotti che in quel momento erano disponibili, salvo alcune bietole. Le ha mangiate, le ha gustate. Ho capito poi col tempo che è veramente ghiotto di bietole. E devo dire che mi fa anche piacere notare che il mio lavoro nell'orto è apprezzato da Nunzio. Possiamo assolutamente convivere e condividere questa cosa. Marcella è la padrona di casa e ha visto l'arrivo prima di Carlotta e poi di Nunzio. Le abbiamo chiesto di raccontarci qualche episodio sulla vita dei nostri due compagni di avventura. Dunque, sì, la Carlotta è arrivata nel 2005 ed era piccolina, cioè proprio una cosa così. E però è sempre stata molto vivace, perché lei, per esempio, che ne so, qualunque vaso avesse trovato a portata, andato. Nunzio, per esempio, lui è molto più indipendente, pur anche io ultimamente ha girato tutta la collina e torna a casa da solo. La prima volta che ci siamo accorti che Nunzio non c'era, tutti a cercare, non sapevamo che lui aveva un così tale senso dell'orientamento che comunque sarebbe tornato, e insomma finalmente lo ritroviamo. Quando l'abbiamo rimesso dentro il recinto, guarda, siamo rimasti basiti con la Paola, c'era Simone che mi hanno aiutato, perché la Carlotta ha fatto una parte a Nunzio come da mamma verso il... Guarda, siamo rimasti basiti, ma tu vedessi cattiva, cioè come se lo stesse veramente brontolando. Ecco, ora porto qualcosa da mangiare a Nunzio e Carlotta, che sono all'ombra, sotto gli alberi all'interno del loro recinto. Si sa che i maiali hanno una predilezione per il fresco, per l'acqua, si bagnano. Gli piace anche sguazzare un po' nel fango. Vedo che la Carlotta ha sentito il mio arrivo. Carlottona, vieni. Si è avvicinata. Vieni Carlotta, vieni. Vieni. Le sto dando una mela, un po' di insalata. Questa è la Carlotta che mangia. Vieni Nunzio. Ecco. Aspetta, non andare da solo Carlotta. C'è una mela anche per lui. E un po' di avanzi di cucina. Cerchiamo di trattarlo bene. Ciao Nunzio. Hanno segnali di apprezzamento del cibo piuttosto eloquenti. Ciao Carlotta, ciao Nunzio. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Ho Ho letto per la prima volta Liberazione animale di Peter Singer parecchi anni fa. Era un volume pubblicato almeno 10 anni prima, ma che sembrava ancora più vecchio, con molte pagine tenute insieme con il nastro adesivo e altre piegate o stropicciate. Insomma, un libro vissuto. Ce lo passavamo di mano in mano come carbonari e ogni volta chi lo prestava a un'altra persona lo presentava come un libro fondamentale per capire le motivazioni dell'antispecismo. Nel 2010 finalmente è stata pubblicata una nuova edizione da Il Saggiatore e ora il libro si trova facilmente in libreria. La lettura avrà perso un po' del fascino del proibito, ma Liberazione animale rimane una pietra miliare nella storia dell'animalismo. Singer è un filosofo australiano, nato nel 1946 da ebrei viennesi, scappati dalla persecuzione razziale. Attualmente è docente di filosofia morale all'Università di Princeton, negli Stati Uniti, e alla Melbourne University, in Australia. Il suo libro più famoso è senza dubbio proprio Liberazione animale, pubblicato per la prima volta nel 1975, che da subito ha innescato un dibattito in tutto il mondo e ha portato cambiamenti in tutti i settori, dalla politica, con nuove leggi per proteggere gli animali, alla filosofia, con riflessioni sui loro diritti. Anche l'ALF, l'Animal Liberation Front, muove i suoi primi passi in conseguenza della pubblicazione di questo libro e non è un caso che in Italia la LAV, Lega Antivivisezione, sia nata proprio 2 anni dopo, nel 1977. Un libro che si colloca a metà tra un saggio filosofico e un reportage sugli orrori della vivisezione, dei macelli e di tutti gli sfruttamenti condotti dagli umani verso gli animali. Con un linguaggio chiaro e lineare, Singer espone le sue tesi contro lo specismo, dimostrando quanto sia insensato fare una graduatoria tra diversi esseri viventi che, pur appartenendo a specie diverse, sono tutti ugualmente senzienti, cioè capaci di soffrire, e sono quindi titolari di diritti. Non riconoscere questo viene dall'autore condannato come una forma di razzismo, appunto lo specismo. Queste idee conducono alla condanna della vivisezione, dello sfruttamento negli allevamenti intensivi, la necessità di un cambio di alimentazione verso la dieta vegetariana o, ancor meglio, vegana. Nonostante siano ormai passati decenni, Liberazione animale rimane un libro da leggere e da far leggere, soprattutto in questa nuova edizione arricchita e corretta, per riflettere su fondamentali quesiti etici che si ripercuotono sulle nostre scelte quotidiane. Leggiamo un brano da Liberazione animale. Io credo che l'argomento a favore della liberazione animale sia logicamente cogente e non possa essere confutato, ma l'impresa di sconfiggere lo specismo nella pratica è formidabile. Abbiamo visto che lo specismo ha radici storiche che penetrano in profondità nella coscienza della società occidentale. Abbiamo visto che l'eliminazione delle pratiche speciste minaccerebbe gli interessi acquisiti delle colossali società dell'agrobusiness, nonché delle associazioni professionali dei ricercatori e dei veterinari. Se necessario, queste società e associazioni sono disposte a spendere milioni di dollari per difendere i propri interessi. E il pubblico verrebbe in tal caso sottoposto ad un bombardamento propagandistico volto a smentire le accuse di crudeltà. Inoltre, il pubblico ha, o pensa di avere, un interesse al mantenimento della pratica specista di allevare e uccidere animali per cibo, ed è quindi pronto ad accettare la rassicurazione che, almeno in quest'ambito, la crudeltà è contenuta. La gente è anche disposta ad accogliere argomentazioni inconsistenti che non prenderebbe in considerazione neanche per un momento, se non fosse per il fatto che sembrano giustificare la sua dieta preferita. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricettina di oggi è quinoa con pesto di baccelli. Una ricetta non solo per vegani, ma per chi vuole provare a mangiare sano e saporito. La quinoa è uno pseudo cereale, è un alimento proteico, ma non molto calorico, che contiene minerali utili ai nostri fabbisogni. Non contiene glutine, quindi ti riempie la panza, ma senza intolleranza. Il baccello è un alimento di stagione e proviamo a renderlo più leggero, digeribile e gustoso con questa rapida preparazione. Traduca in fiorentino il baccello. Dice si fava, però non è un insulto. È un'ottima leguminosa, un cibo sopraffino e molto local, anzi glocal. Ingredienti: 150 g di baccelli o fave fresche a questo punto, 40 g di mandorle, 30 g di olio extra vergine d'oliva, 10 g d'acqua. acqua. Che siano 10, mi raccomando, se sono 11 la ricetta non funziona. Si squaccherà troppo. Un cucchiaio di limone, un cucchiaino di curry, una spolverata di noce moscata, foglie di timo fresco, quinoa, l'immancabile amore della Camilla. Ci siamo, c'è il cumino questa volta. Credevo che tu me l'avessi definitivamente censurato dalle tue ricette. Mi ero forse entusiasmata troppo? T'ho messa alla prova, ma è sempre presente. E naturalmente il sale. Scusa, ma di quinoa quanta ce ne vuole? Te lo dico subito dopo. Preparazione: sbucciare i baccelli con santa pazienza, privandoli dell'occhio e, se ritenete opportuno, anche della buccia. Scusi, quando parla di occhio, a che cosa si riferisce? Occhio per occhio, baccello per baccello. Cioè la fava c'ha pure l'occhio. Anche l'occhio ha la sua. Anche l'occhio vuole la sua fava. Ecco. Benissimo, andiamo avanti. Io non ho ritenuto opportuno sbucciare anche e togliere anche la buccia, visto che erano tenere, e poi non mi volevo sfavare troppo a sfavare i baccelli. Tenere, mai grasse. Successivamente tritate fave, mandorle e dopo aggiungete olio, limone, acqua, sale, curry, noce moscata, timo e ridate un altro giro di rifrullo. Mettere a lessare la quinoa con le seguenti proporzioni: un bicchiere di quinoa e due di acqua. Questa ricetta è per tre persone, se siete di più aumentate le dosi, sia di baccelli che... Ricetta per tre fave? Tre fave. Noi siamo in sei, quindi... Raddoppiamo. Raddoppiamo. Lascia raddoppia. Lascia raddoppia. Mettere... Si è emozionato, il cuoco si è emozionato, attenzione. Far cuocere per 15-20 minuti finché l'acqua non sarà assorbita e il cereale cotto. A questo punto servite mettendo accanto quinoa e pesto, oppure mescolate insieme e aggiustate di olio e sale se occorre. E ricordate che dal Perù a Figline è più sano che vegano, perché io... Sgrano vegano. Scusa Giuseppe, sono due volte di seguito che ci fai cucinare il pesto. Che succede? T'hanno pestato? M'hanno pestato. Hai voglia di tirarci un pestone? Visto che siamo in primavera, la robetta cruda va bene. Aiuta la digestione e favorisce il nostro ingresso verso la primavera. Pesto di sera, vegano si spera. Sostiene Vallauri. I picture you in the sun, wondering what went wrong. Cosa dire della sperimentazione? Beh, intanto preferisco chiamarla vivisezione, perché se uno di noi subisse sperimentazione animale credo che si sentirebbe vivisezionato. Questo con buona pace dei medici ben pensanti. Beh, la prima cosa da dire è che non è scientificamente probante. Non si passa da una specie all'altra. Infatti ci sono resoconti di veri disastri dovuti a farmaci testati su animali. Ci sono migliaia di medici e associazioni mediche molto rispettabili contro, per motivi scientifici. Ci sono dei vivisettori importanti che si sono convertiti e si deve comunque sempre sperimentare sull'uomo, in modi qualche volta palesi, in modi criptici. Il vecchietto nella clinica, che è scientificamente molto interessante. E quando si dice tutti i premi Nobel hanno sperimentato, beh, bisogna aggiungere che è sempre stato l'uso del farmaco nella popolazione umana a testare gli esperimenti e non gli esperimenti a garantire la validità. Cioè è praticamente non è la sperimentazione che valida il farmaco, è l'uso del farmaco tra gli uomini che valida all'indietro le sperimentazioni. Detto ciò, c'è un grosso problema, cioè più l'animale è antroposimile, antropomorfico, e più l'esperimento è valido, ma diventa sempre meno etico. Cioè più è scientifico e meno etico, perché appunto l'ideale è sperimentare sull'uomo. C'è un'altra cosa da dire: gli esperimenti senza animali sono più scientifici e certamente più etici di quelli con animali. Infatti il nostro diritto, che risale al 92, dice chiaramente che gli esperimenti con animali sono residuali rispetto a quelli con i metodi alternativi, cioè su cellule umane, col computer, eccetera. Qui c'è una specie di contraddizione giuridica, cioè se gli esperimenti sono residuali e se bisogna dire al ministero, bisogna chiedere al ministero il permesso di sperimentare su animali dimostrando che è indispensabile, non dovrebbe esserci il principio del silenzio assenso. Cioè, visto che sono residuali, se il ministero tace, l'esperimento non si fa. Invece succede il contrario, cioè basta che il ministero sia un po' lento e l'esperimento residuale diventa approvato. Approvato senza che ci sia una parola di approvazione. Io credo che tutto questo insieme di cose ci deve spingere a ridurre al massimo gli esperimenti, se non a abolirli del tutto, e a boicottare i prodotti testati inutilmente su animali. Stasera, domenica 3 giugno alle ore 21, un evento importantissimo. Jane Goodall sarà a Firenze, protagonista al Teatro Odeon della performance live Il viaggio di Jane. Jane Goodall racconta Jane Goodall, in cui sarà proiettato il film Jane's Journey di Lawrence Knauer sulla sua vita. La stessa scienziata, accompagnata dalla chitarra di Wolfgang Netzer e dal clarinetto di Gabriele Mirabassi, narrerà i momenti più significativi della sua storia in Africa. L'evento si terrà al Teatro Odeon. Ripetiamo, stasera, domenica 3 giugno alle ore 21:15. E adesso un annuncio importantissimo. Domenica 10 giugno torna la Sagra del Seitan, un appuntamento per parlare del vivere vegan e soprattutto metterlo in pratica, per capire e provare cosa vuol dire vivere senza sfruttare gli altri animali, per conoscere un mondo ricco di contenuti, ma soprattutto per assaporare del cibo squisito. Anche la redazione di Restiamo Animali parteciperà alla Sagra del Seitan. Giuseppe Coco presenterà il suo ultimo libro, Il pasto gentile. Lorenzo Guadagnucci converserà con il professor Luigi Lombardi Vallauri. Mi raccomando, save the date, domenica 10 giugno, dalle 11 alle 23, presso il Circolo Ricreativo di Pozzolatico, sulle colline fiorentine, in via Imprunetana per Pozzolatico 227. Per informazioni, www.sagradelseitan.it. Troverete fotografie, contenuti, ricette, interviste e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni su restiamoanimali.wordpress.com. Potete scriverci a restiamoanimali@controradio.it. E per compensare la preponderante presenza dei baccelli, chiudiamo con la nostra amica Cicala! Delle cicale, cicale, cicale, cicale. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica da sempre dalla parte degli animali.